Giovedì 20 dicembre del 2012, 87.900 la modulazione di frequenza. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta con tutte le informazioni la trovate sul sito della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. Gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 20 dicembre, i nostri suggerimenti, le nostre indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana e il link che rimanda alla puntata precedente e a tutte le puntate del 2012. Diamo inizio ai nostri ospiti per comunicare con noi. Intanto per ascoltarci, potete ascoltarci anche in streaming attraverso il sito internet della radio, sulla home page c'è Ascolta la diretta. E poi per invece scriverci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. In apertura Carlo Di Carlo, regista del documentario Il gioco degli specchi, presentato all'ultimo festival del film di Roma. Carlo, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori. Come va intanto? Bene, grazie. E come è andata la presentazione a Roma? A Roma è andata bene, io ero molto preoccupato perché era stata la prima proiezione, era in una sala 2, quindi di 700 posti, e invece era per metà piena, quindi questo mi ha fatto molto piacere ovviamente. Allora... È piaciuto molto, io credo comunque che sia un tentativo di una lettura molto altra, molto diversa, molto... insomma l'imprinting che abbiamo cercato di dare io e Flavio De Bernardinis mi pare che giochi a favore del film, insomma. Ecco, proprio a questo riguardo, per chi ci ascolta, di cosa forse non sa di cosa si parla nel gioco. Allora, il gioco degli specchi ha un sottotitolo che è il cinema è lo specchio della società italiana, la società italiana è lo specchio del cinema italiano, quindi diciamo è questo tentativo di raffronto di eventi, avvenimenti e o film e materiale relativo ai film dell'epoca dal 1945 all'83, cioè all'avvento di Berlusconi e quindi alla trasformazione micidiale dell'audiovisivo, insomma. Sì. Quindi un e universo questo raccontando quindi la bellezza di un cinquantennio di storia italiana, insomma. Mm-hmm. È un universo che rimanda all'altro, quindi naturalmente con una cosa che non c'è una sequenza che sia una di un film, perché non c'erano i soldi, e quindi noi siamo riusciti a inventarci quello che accadeva attorno al film e di cui i cinegiornali davano conto, e quindi è diventato anche molto divertente. Fin noi poi abbiamo scelto una chiave anche di lettura del potere ironica e oggettivamente tale. Mm-hmm. Dico oggettivamente perché noi non abbiamo aggiunto una parola, ma io ho mantenuto tutti i sonori originali, quindi ogni cinegiornale, che tra l'altro è stato stampato da negativo originale, quindi anche di un'ottima qualità, di questo formidabile archivio del Luce, che più si vede, più si guarda, più si trova, insomma, ecco. Il che, insomma, questa difficoltà iniziale invece potrebbe sembrare anche una scelta autoriale molto interessante, questa del mostrare fotogrammi. Sicuramente nasce come scelta autoriale, su questo non ci piove, insomma, sì. Nel senso che proprio me lo sono posto come problema, insomma. Mm-hmm. E quindi è curioso vedere come la voce del potere, cioè gli speaker, a parte già all'inizio che dall'inizio delle Sorelle Petacci, che è un pezzo d'antologia, si passa alla Liberazione di Milano e lo speaker, così come dice delle Petacci, con tutti gli omaggi a lui, con l'L maiuscola, così due minuti dopo dice che finalmente i liberatori sono arrivati in Italia e hanno conquistato la libertà, insomma. E non dimentichiamo poi che gli speaker dell'inizio del governo della Democrazia Cristiana non è meno non è migliore sicuramente degli speaker precedenti, anzi diciamo peggiore i toni. Insomma, divertente, ecco, quindi io credo che sia bene vederlo, insomma, se non altro. È in due parti di un'ora ciascuna. Il secondo si apre col 68 e va del 68 all'83. Allora Carlo, facciamo un passo indietro. Sì. Come nasce il progetto e perché l'idea di rappresentare questo cinquantennio di storia italiana e da quali presupposti siete partiti? Allora, nasce da una discussione che Flavio De Bernardinis, che è un illustre critico e storico del cinema, di cui siamo molto amici, chiacchierando abbiamo commentato quel pezzo stupendo di Mario Monicelli su Micromega, che parlava appunto del cinema italiano, e noi abbiamo dedicato in omaggio a lui il film a Mario, e da questo è venuto fuori il discorso e anche diciamo certe cose provocatorie che Flavio mi diceva, insomma è nato congiuntamente e poi ha subito tutta una serie di correzioni di tiro, anche perché il materiale sterminato, il materiale visto è tantissimo, e quindi volere percorrere dei sentieri inediti, insomma, ha richiesto un certo lavoro. Certo. Io poi la cosa importante, ecco, diciamo, autoriale che ci può essere è questo, che contrariamente a quello che si fa col materiale d'archivio, che in Italia si dice di repertorio, che cioè si prendono i cinegiornali e si mettono oppure si tagliano in testa in coda, io ho smontato ogni cinegiornale che ho messo, cioè l'ho considerato come girato, e quindi gli ho dato un altro input, ho tagliato, l'ho reso più nervoso, ho cercato di dare un ritmo, mantenendo naturalmente il sonoro originale, quindi anche questo è un tentativo. Insomma, a sentire chi l'ha visto è riuscito. Ecco. Tanto mi fa piacere questa dedica a Mario Monicelli, che non so se è a conoscenza, ma era un amico di Onda Rossa, era spesso ospite di questa trasmissione. Beh, non sapevo, però insomma siamo in molti a essere sempre amici di Radio Rossa, perché è ormai storica, no? Sì, Onda Rossa. Una delle prime radio cosiddette libere, era il 77. Certo. E questo del 68, con cui si apre la seconda parte. Io ho usato tutti i materiali che Silvano Agosti fece, cioè i cinegiornali del movimento, e quindi rimontando completamente, dandolo in 8 minuti, ma 8 minuti molto intensi, perché parte da Valle Giulia e arriva tutta l'occupazione dell'università e il famoso scontro condotto da Almirante Caradonna fuori e gli altri dentro, insomma. Sì. Senti, vista le difficoltà dovute alla grossa mole di lavoro a cui accennavi prima, sì. Vi siete mossi per blocchi tematici? Come avete strutturato? No, noi abbiamo, allora diciamo che la cosa prima era l'anno di riferimento. Sì. Perché, e quindi quello che si poteva trovare nell'anno di riferimento, e quindi si sceglieva, e così via. Poi naturalmente c'erano tutta una serie di eventi, perché purtroppo gli anni 70 non sono così divertenti come gli anni 60, c'è poca ironia da fare, perché comincia col 68 e poi via via succede di tutto, e Piazza Fontana, e le stragi, fino alle Brigate Rosse, cioè voglio dire, Pinelli, insomma, Calabresi, quindi voglio dire, ci sono tanti avvenimenti, sia di lutti e di cose, di tragedie, terremoto del Friuli e tutto, che poi viene scandito dalla morte di Pasolini, di cui io sono stato aiuto per Mamma Roma, Rogo Paghe e La Rabbia, e a separare diciamo qui i 70 dagli 80, insomma, già con una sua previsione che io ho preso nell'ultima intervista che lui ha fatto a Gideon Bachmann nel 75, quindi sulla morte io ho messo queste due frasi sue, questi due reperti sonori che sono micidiali, ascoltati oggi, perché lui ha già previsto tutto, insomma. Mm-hmm. Morendo ha già previsto tutto. Sì. Senti Carlo, dicevi prima del tono ironico che avevate scelto. Sì, noi abbiamo cercato di divertirci per far divertire molto, quindi anche siccome è un film che va avanti per contrapposizioni, sì. e quindi accelerando, oppure non so, ti faccio un esempio tanto perché gli ascoltatori possono capire. Ladri di biciclette, invece di essersi la sequenza di ladri di biciclette, c'è un cinegiornale dove racconta come si ruba una bicicletta. Ecco, è proprio, diciamo, scientificamente, sì, e quindi questo è un po' il sale, certo, che cerca di... E considerato il tono che avete optato, sì, che bilancio ti senti di fare di questo cinquantennio che avete preso in esame? Allora, che i 60, anche perché io li ho vissuti, sono stati anni meravigliosi. I 70 sono stati anni belli, ma appunto però, diciamo, dopo il 68, che è stato sicuramente uno dei più bei e più grandi eventi del seconda metà del secolo, e ci sono stati tutti i lutti che ci sono stati, che non ha impedito che poi all'interno non si verificassero tante cose, insomma, e quindi anche poi questa affermazione del potere, con questa, poi con la contaminazione, poi con il passaggio alla vittoria del 70 della sinistra, le radici del compromesso storico che vennero poi messe a tacere immediatamente le Brigate Rosse. Quindi, ecco, e poi per finire poi questo avvento di Berlusconi con un pezzo, diciamo, che dire risibile è poco, veramente eclatante, di Drive-In, che dice, ecco qua dove siamo arrivati, insomma. Senti Carlo, è la nascita di un dopo, insomma. Sì. Senti, in chiusura, dove sarà possibile vederlo? Guarda, il DVD è già pronto dall'Istituto Luce Cinecittà, e quindi cosa? Poi penso che si facciano i soliti tentativi, cioè di vedere se può andare la TV generalista, quindi tanto per intenderci in Rai 3 o Rai Storia, insomma, questo è tutto da vedere. Poi le Pay, naturalmente in due puntate di un'ora, per questo l'abbiamo in un certo senso divise, no? Separate, quindi uno può al limite può vedere anche un'ora, no? Arriva fino a 68, poi vede la seconda, va dal 68 all'80. Io ci tengo molto all'unicità, però insomma poi la realtà di oggi è questa, insomma. Sì, sì, sì. E poi nei mezzi possibili, Cubo Vision, insomma, sono tante forme, andrà poi anche sulla rete, io penso, a un certo punto, quindi. Bene. Allora, io ti ringrazio, spero di sentirti presto, resta un attimo in linea, Carlo. Come no? Bene, questo era Carlo Di Carlo, regista del documentario Il gioco degli specchi, noi proseguiamo. Allora, Francesco D'Ascenzo, regista del documentario Autobiografie Eccellenti, che sarà presentato domani a Palazzo Valentini qui a Roma. Francesco già è stato nostro ospite, ben ritrovato quindi. Ti ringrazio Federico, come sempre gentilissimo a concedere spazio anche a noi giovani autori, un po' più, diciamo, nascosti. Allora, il primo lavoro di cui ci eravamo occupati era Rughe. Questo Autobiografie Eccellenti, ti muovi nell'ambito cinematografico? Sì, diciamo che è una raccolta di autobiografie, che insomma non è né un documentario, non è né un cortometraggio, perché ogni autobiografia dura 15 minuti, ma sì, non è di finzione. È una raccolta che voglio fare ogni anno, quest'anno la presentiamo appunto domani a Palazzo Valentini alle ore 18 alla Sala di Liegro, e si tratta di interviste che ho fatto a personaggi del cinema e della musica, Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti, Citto Maselli, Nino Russo, Luttazzi, Tamponi, Perticaroli, e sono tutte delle autobiografie, cioè sono un quarto d'ora in cui ogni personaggio si racconta se stesso, si svela, diciamo, in quelli che sono i propri pensieri, i propri ricordi. È stato proprio una raccolta di memoria personale, senza interpretazioni né filtri, è proprio ne esce fuori l'uomo che è dietro l'artista che si racconta, e quindi vengono dette anche cose, naturalmente è tutto materiale inedito, quindi vengono dette cose che magari, ecco, Lizzani non ha mai detto in televisione, non ha mai esposto, e invece proprio in questo rapporto intimo che si è creato tra ogni personaggio intervistato e la macchina da presa, si viene a creare questa terza questa terza persona, che è proprio l'uomo che si nasconde dietro queste comunque grandi personalità. Per questo sono eccellenti queste autobiografie. Francesco, quante ne hai realizzate? Nel senso, è previsto un blocco unico oppure verrà suddiviso in più parti? Quest'anno sono 8, che sono 4 registi e 4 musicisti. L'anno prossimo, già sto lavorando al progetto dell'anno prossimo, prevederà scrittori, sceneggiatori in una categoria e l'altra attori, attrici, quindi avremo sicuramente la Anna Proclemer e Giorgio Arlorio, Venantino Venantini, tra i primi tre, insomma, che sto realizzando. E sto prendendo ora i contatti con altri eccellenti personaggi del panorama artistico culturale italiano. Mm-hmm. La cosa interessante è che ho voluto, nel modo in cui propongo queste interviste anche agli stessi intervistati, che rimangono di solito sempre sbalorditi da come avviene il tutto, perché ho voluto un po' rompere lo schema di quello che è l'intervista classica anche televisiva, che c'è un filo già preparato, è già tutto preconfezionato e quindi si ha l'intervistatore che pone delle domande all'intervistato, ci sono delle domande e delle risposte in uno schema già predefinito. Sì. Invece già come ho condotto le interviste a ruota libera, quindi l'intervistato poteva spaziare dalle cose più varie, molti si sono ricordati il perché hanno iniziato il cinema o hanno iniziato a suonare la musica perché improvvisamente si sono ricordati un particolare della loro vita infantile, oppure Luttazzi parla anche della morte, quindi viene lasciato molto libero e questo si vede in questo, in questi 15 minuti che poi di ognuno ho realizzato, dove il filo narratore è la poesia, i silenzi anche di questi personaggi e quindi la loro umanità, artisticità, diciamo. Beh, un po' come faccio io poi le chiacchierate in collegamento telefonico qui in radio, insomma. È la cosa migliore, perché poi è inutile sapere, non si sa dove si andrà a finire. Esatto, e quindi esatto. E questo è interessante per poi far nascere qualcosa di nuovo. E infatti poi questi ritratti di ognuno sono, secondo me, abbastanza innovativi e nuovi proprio come impatto anche emotivo che si ha verso una persona che racconta di sé. Francesco, perché cinema e musica? Cinema e musica perché è stato un po' un, naturalmente come avviene, no, quando uno dice ho avuto un'idea, non è mai vero, perché poi uno ha delle intuizioni che poi ci pensa finché poi si arriva a una singola cosa che poi è l'essenziale da cui si parte nel progetto, però è stato un po' un caso. Perché io, non essendo di Roma, ma essendo vivendo a Roma da 5 anni, ero venuto e avevo avuto la possibilità, anche essendo membro dell'ANAC, di conoscere, appunto, partendo già da Monicelli, che quando fui ammesso all'ANAC era presidente, ora è presidente Ugo Gregoretti, ebbi la possibilità di conoscere tutte queste personalità che mi affascinavano, perché vengo dalla provincia, dal Molise. Quindi per me parlare di cinema con queste persone che ammiravo mi ha dato tantissimo, allo stesso tempo conoscere musicisti che conoscevo di fama perché mi avevano raccontato qualcosa di Luttazzi quando ero piccolo, oppure Pregaddio che vedevo da bambino alla corrida ma non sapevo che era un grande pianista di jazz. E infatti nella sua autobiografia è presente un suo concerto inedito in cui lui suona dei pezzi di Gershwin da far venire i brividi, come direbbe Citto Maselli. E quindi avvicinandomi a queste personalità ho capito che secondo me ascoltando i loro silenzi, comunque persone che erano lontano da me sia anagraficamente sia comunque per esperienza artistica, per me erano dei grandi maestri. E quindi le sensazioni che provavo, vedevo che non erano le stesse di quelle che magari potevo provare vedendoli poi intervistati in televisione oppure leggendo riviste di giornali cinematografici o altro. E volevo appunto sfruttare, ho detto, voglio sfruttare questi silenzi, queste pause, quello che hanno da dire. E prendendo appunto, rubando le loro emozioni e catturandole cinematograficamente. E quindi poi sono andato a intervistare tutti, la cosa mi è talmente piaciuta che ora voglio farlo ogni anno scegliendo nuove persone che per me e un po' anche per tutta l'Italia, sono dei punti di riferimento artistici. L'unico che non si è concesso è Ettore Scola, con cui appunto ieri sera anche parlavamo. Ho detto: guarda Ettore, quando vuoi. Lui mi disse: no, non voglio lasciar traccia, quindi ora lo convincerò comunque. Ora vediamo un po' come pressarlo, ma è interessante secondo me questo progetto. Allora Francesco, domani la presentazione qui a Roma a Palazzo Valentini, poi verrà stampato il DVD dalla Regione Lazio, che appunto bisogna ringraziarla in qualche modo, nonostante tutto diciamo. Nonostante tutto, insomma, stampa questo DVD, ci saranno tutti e otto appunto tutto il progetto di quest'anno. Spero di riuscire a presentarlo a febbraio, marzo, alla Casa del Cinema, con tutte le proiezioni integrali, magari in due giornate, un giorno dedicato alla regia, un giorno alla musica. Beh, allora avremo modo di riparlarne sicuramente. Va bene, Federico. Allora, Francesco, un abbraccio, a risentirci presto. Io ti ringrazio tanto e ricevo sempre le tue email con visionari, ascolto sempre molto volentieri notizie che magari difficilmente raggiungibili. Mi fa piacere. Dai media classici. Esatto. Insomma. Un abbraccio. Quindi, a presto, grazie Francesco. A te e a presto. Grazie, grazie. Ciao. Grazie. Francesco D'Ascenzo, regista del documentario Autobiografie Eccellenti. Di nuovo, per comunicare con noi, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Una volta esisteva anche l'opportunità dell'SMS in diretta, ma credo sia bloccato da un po' di tempo. Comunque il numero è 342-357-4357, visto mai. Allora, abbiamo aspettato che tornasse dalla Francia e tornasse nella sua Sardegna Giuseppe Casu, regista del documentario L'amore e la follia. Benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Grazie, saluti a tutti. Come va? Come è andato il rientro intanto? Ma sì, è abbastanza lungo, insomma si prende l'aereo, però è più lungo del previsto, tra uno spostamento e l'altro, però tutto tranquillo, grazie. Oh, ogni tanto capita di affrontare lavori ambientati o che vengono dalla Sardegna o che parlano di Sardegna, per me è sempre un piacere. L'amore e la follia in questo caso, che storia è? Ma L'amore e la follia è un po' il risultato di un viaggio durato 3 anni circa in mezzo ai minatori. E la storia che racconta il film è la storia di due personaggi che sono Maldi e Silvestro, che hanno diciamo due percorsi molto diversi, comunque entrambi minatori, che poi si ritrovano insomma ad occupare la miniera di San Giovanni Iglesias nel 92, in quella che è stata una delle ultime grandi battaglie prima della chiusura delle miniere metallifere in Sardegna. Senti Giuseppe, da quanto leggevo rispetto al tuo lavoro, si può parlare di una mescolanza tra finzione e documentario? Bella domanda. Perché qualcuno ha scritto questo, insomma. No, vabbè, però l'idea che insomma, leggendone, insomma, può venire fuori, insomma, questo tipo di riflessione. Ma finzione, allora, diciamo che finzione sia Manlio che Silvestro si sono prestati alla fine del lungo percorso che abbiamo fatto insieme, sì, a interpretare alcune inquadrature, alcuni punti di vista di cui avevamo bisogno, che comunque erano completamente in linea con ciò che era stato filmato e visto, sì, insieme. Sì, sì, sì, sì. Quindi in questo senso sì, nel senso che ci sono state delle più scelte tecniche, insomma, rispetto invece al racconto che è genuinamente, insomma, percorso di vita. Sì, sì. Diciamo questi inserti hanno permesso, insomma, di affrontare in modo tra virgolette poetico, insomma, un po' più meno narrativo alcune questioni che comunque comunque volevo affrontare, perché Manlio è un poeta alla fine, quindi ci ha permesso anche di fargli leggere alcune sue poesie. Poi Silvestro, innamorato della montagna, ho fatto una scena che lui stesso in realtà era da anni che mi chiedeva di fare, quindi alla fine, in realtà c'è finzione, ce n'è ben poca di finzione, cioè, hanno continuato a essere loro stessi al 100%. Senti Giuseppe, qual è l'amore e qual è la follia nel tuo lavoro? Dunque, l'amore e la follia, diciamo che si prestano a... Cioè, ci sono vari canali che possono portare un'associazione a questi due concetti, però indubbiamente quello che ho visto io, che ho cercato poi anche di riportare sul film, questo enorme amore dei minatori nei confronti della miniera e del loro lavoro rispetto a quello che è, con un po' di semplicità un po' troppo rapida, viene semplicemente spesso associato come un lavoro disumano e diciamo un po' folle, in questo senso. Sì. In realtà si è trattato di un mondo di lavoro estremamente complesso, molto umano, che ha permesso a tante persone non solo di guadagnare una loro identità lavorativa e di crescere come persone, certo, sempre in un ambiente difficile e anche pericoloso, però che, un po' per tradizione forse viene associato all'idea di uno dei lavori più pericolosi che si possano fare. Ora è pericoloso, però ce ne sono anche tanti altri. Certo. Senti Giuseppe, allora il riferimento di partenza a cui accennavi prima era la lotta dei minatori nel 92. Ecco, da allora qual è stato il destino di questa attività e com'è oggi la situazione? Dunque, per quanto riguarda le miniere metallifere in Sardegna, la situazione è questa. Distingo un po' perché per coloro che diciamo non sono dentro il problema, magari si tende ad associare o a confondere l'attività di estrazione dei metalli con quella del carbone. Invece diciamo c'è un'attività di estrazione del carbone che è tuttora in corso in Sardegna, quindi c'è una miniera che è aperta e che estrae, anche se al ritmo diciamo rallentato per vari motivi. Mentre invece quella che è stata la tradizione più lunga nel campo minerario nella Sardegna è stata l'estrazione dei metalli, a partire dall'argento, poi soprattutto piombo e zinco, ma anche rame e tanti altri minerali importanti. Questa attività è cessata praticamente negli anni 90, dopo essere durata per millenni. Quello che rimane adesso sono praticamente nulla, però io so che alcuni anni fa c'era ancora una piccola miniera che si trovava nel territorio di Olmedo, nel nord della Sardegna, e c'è una miniera di fluorite che è in stand-by da 6 anni, ossia ci sono circa 100 lavoratori minatori che sono rimasti in cassa integrazione per 6 anni. E che pare che siano per rientrare al lavoro. Insomma, una notizia strana, controcorrente, in periodi di crisi. Sì. Ora non vorrei interpretarla politicamente perché non so bene come andrà a finire questa cosa, però insomma mi fa piacere che questi ragazzi con le loro famiglie possano riprendere, ecco, a lavorare in quello che è un territorio estremamente povero, il sud sud-est della Sardegna. Sì, insomma. Sì, sì. Io mi è capitato qualche anno fa di andare a Piscinas in estate, insomma, ci sono queste miniere abbandonate, ma è anche uno dei luoghi anche meno battuti. Non so, poi negli ultimi anni sicuramente anche lì il turismo è cresciuto, però insomma uno dei patrimoni anche naturalistici importanti della Sardegna. Sì, diciamo da quella parte che è la mia preferita, insomma, sì, sud-ovest, sì, sì, no? Sì, sì. Che prima dicevo Filius, la miniera di Florite si trova dall'altra parte, insomma, più sì, verso, sì. Verso l'est. Invece tutta la zona del sud-ovest della Sardegna è selvatica, come a me piace proprio da certo, morire, cioè, certo. C'ho pure la mia residenza, sì, da quelle sì, parti. Sì, sì, sì. Non è tanto battuta come turismo, perché comunque i collegamenti sono difficili, sì. Le poche strade che ci sono strade che poi sono state create all'origine proprio per sfruttare il lavoro delle miniere, e sono posti comunque veramente allucinanti, cioè si va dalle dune di sabbia, sì, a montagne ricche di cervi che incontri così al tramonto a 2 metri di distanza, sì, cioè, sì, sì, sì. È tutto verde, cioè è strano, è un'immagine della Sardegna un po' particolare, un po' sì, diversa da quella solita, sì, insomma, il turismo di massa. Sì. Senti Giuseppe, allora il tuo lavoro è stato presentato recentemente al Festival di Torino, prossimamente dove viaggerà? Dunque, proprio oggi stavamo un po' parlando anche con la Film Commission della Sardegna per trovare delle soluzioni distributive che comunque sono da affrontare anche caso per caso, perché già è difficile far uscire un documentario in sala in Italia, però in realtà ci sono molte situazioni apparentemente sotterranee che possono essere battute. Io tengo che al più presto venga visto in Sardegna e penso che nel giro di qualche mese ci riusciremo. Mm-hmm. Poi quello che sarà a marzo prossimo verrà mandato da una televisione francese che ha partecipato in qualche modo alla produzione di questo film. Niente, stiamo preparando per uscire bene. Io terrei soprattutto che venisse visto in sala, non per altro, perché è molto più bello vedere, certo, in sala. Certo. Io stesso per la prima volta l'ho visto grande a Torino. È emozionante. Ma sì, buttate via il computer e la televisione, perché non servono a niente, quanto a quello che può vedere in sala con l'altra gente a fianco. Cioè, veramente è un'altra esperienza, certo. Sto dicendo cose ovvie, perché tutti quelli che sono andati al cinema almeno una volta nella vita lo sanno, però è vero. Allora Giuseppe, io aspetto prossimamente novità rispetto proprio alle vie distributive dell'Amore e la Follia, ti abbraccio e un in bocca al lupo. Ok, crepi il lupo, ti abbraccio anche io e tutti quelli che ci hanno sentito, ci hanno ascoltato. A risentirci presto. A presto. Ciao. Ciao. Giuseppe Casu, regista del documentario L'Amore e la Follia. Ed è nuovamente con noi Matteo Tortone, co-regista del documentario Swahili Tales. Ci sei, Matteo? Ciao, ciao a tutti, ciao Federico. Come va? Bene, bene, bene. Oh, poco fa ho visto che sulla pagina di Visionari su Facebook mi hai mandato anche il trailer del tuo lavoro. Ho pensato che magari certo, fa piacere avere anche qualche riferimento visivo rispetto al lavoro. Allora, raccontiamolo un po' questo nuovo lavoro. Sì, questo abbiamo presentato Swahili Tales al Festival dei Popoli di Firenze di quest'anno e poi siamo riusciti anche a fare una presentazione al Cinema Barberini di Roma. Sì. È un lavoro, diciamo, un po' strano rispetto alla norma del documentario, perché da una parte non è un film unico, ma è la raccolta di tre cortometraggi, e in più abbiamo lavorato narrativamente un po' in maniera diversa, cercando di costruire tre novelle che compongono appunto il film. Sì. E tre novelle che raccontano di tre spazi diversi, che però disegnano uno scenario quasi apocalittico di quello che è la ricerca del progresso in Tanzania, in particolare perché il film è girato in Tanzania, ma diciamo in tutta la zona subsahariana, ed è che poi è strettamente collegato un po' con la nostra dimensione economica e quello che sta facendo il neoliberismo in giro per il mondo. Oh, intanto come siete arrivati in Tanzania? Ma questo lavoro nasce dal lavoro precedente, da White sì. Man, sì. che presentammo l'anno scorso. E di cui abbiamo parlato anche qui con te in radio, chiaramente. Sì, ne abbiamo parlato anche in radio, che raccontava, insomma, seguito la vita di quattro albini in a Mwanza, in Tanzania. E ovviamente la questione dell'albinismo, perché noi raccontammo la vita di queste quattro persone durante un periodo abbastanza tragico della loro vita, nel senso che si era creato un mercato di pezzi di esseri umani, ecco, di pezzi di albino, con la finalità di diventare ricchi immediatamente. Quindi diciamo che questo argomento ci ha imposto di prendere in considerazione due dinamiche prorompenti. La prima, appunto, la ricerca dell'oro, la ricerca della ricchezza immediata, quindi cercare di darne una visibilità immediata, e dall'altra invece dar conto di quello che si delineava come uno scontro culturale, insomma, da una parte la tradizione, la cultura tradizionale, dall'altra invece dei movimenti religiosi, eccetera, che vanno ad abbracciare quello che è un'idea neocapitalistica del mondo. Ecco. E quindi i tre corti che compongono Suoi Details rendono conto appunto di questo nostro percorso, situando poi il film all'interno di queste dinamiche più ampie. Senti, a questo punto ti chiedo subito, Matteo, quali sono i rapporti tra un paese come la Tanzania in Africa e il neoliberismo, soprattutto chiaramente di marca occidentale? Ma diciamo che il caso tanzaniano è abbastanza raro, è stata una delle poche, forse l'unica, repubblica socialista fino alla metà degli anni 90. Sì. Fosse stato... E quindi poi di colpo sono entrare i capitali stranieri, le varie industrie, a partire dalla Coca-Cola, che adesso tappezza gran parte dei muri del paese, gran parte dei tetti di lamiera che coprono appunto le baracche, le varie case appunto degli abitanti. Quindi un impatto in 10 anni, in 15 anni, un impatto enorme proprio a livello, diciamo, di simboli, di marchi lasciati sul territorio, e qui è abbastanza molto visibile. Sono intere scuole completamente dipinte dal marchio della Coca-Cola, interi edifici, lo stesso ospedale di Mwanza, che è una città sul lago Vittoria, al nord del paese, è costruito proprio, è stato finanziato ed è stato costruito dalla Coca-Cola, ecco. Quindi un impatto abbastanza evidente, ecco, da questo punto di vista. E poi con un po' di tempo, diciamo a partire dalla fine del 2005, inizio del 2006, è iniziato quello che accomuna la Tanzania a molti altri paesi subsahariani, che è un po' il fenomeno del land grabbing, mentre, che ne so, in Senegal il land grabbing è legato da una parte alle quote di, al greenwashing, dall'altra al, alla stabilità alimentare di paesi arabi sostanzialmente. Invece in Tanzania la corsa alla terra, quindi il ratto delle terre, è più in linea con la ricerca, insomma, si vogliono ottenere delle, la possibilità di sfruttare le risorse minerarie di questo paese, che è pieno d'oro, pieno di diamanti e da ultimo anche di uranio, e quindi dicevo, a metà del 2005, all'inizio del 2006, c'è stata una liberalizzazione intensa delle concessioni minerarie, che ovviamente si ripercuotono sulle popolazioni locali, nel senso che... Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti come sono le condizioni di vita della popolazione. Ma le condizioni della vita della popolazione sono che sono in qualche modo sono obbligate a stare nell'illegalità. In che senso? Soprattutto al nord del paese le attività principali sono quelle della pesca e quella dell'estrazione di metalli preziosi, anche a livello, diciamo, artigianale. Sì. Che ovviamente sono illegali, soprattutto la pesca, a favore di dei sistemi industriali che si stanno via via inserendo sul territorio, per cui le rive del lago Vittoria sono colme di villaggi di pescatori che con piccole imbarcazioni e strumenti di fortuna cercano di portare a casa qualcosa da mangiare, e nel frattempo hanno la consapevolezza di essere osteggiati dal governo e dalle multinazionali che via via si stanno inserendo sul territorio. Sì. E ovviamente, non avendo grossi introiti, essendo alla base di qualsiasi principio economico che governi la società, adesso stanno iniziando a perdere anche il terreno dove giacciono i loro villaggi. Uno dei tre corti, che si chiama La Lingua Cinese, racconta appunto di questo villaggio sul lago Vittoria che aspetta lo sgombero, perché il governo ha ceduto, diciamo, i diritti, la proprietà di quel territorio ad una società cinese che ci vuole costruire un resort per i turisti, visto che Mwanza è anche abbastanza vicino al Serengeti, quindi può essere anche, ecco, una meta, una tappa durante un percorso turistico, insomma un safari, ecco, fatto da quelle parti. Per quanto riguarda invece i minatori, la situazione le attività, diciamo, artigianali sono da una parte completamente isolate, abbandonate da quello che può essere una gestione economica da parte governativa, che è interessata invece solamente a grandi affari con multinazionali. Ovviamente queste piccole attività insomma sono altamente inquinanti per l'estrazione dell'oro, sono altamente inquinanti, quindi vengono anche ogni tanto i media mainstream raccontano della brutalità dell'inquinamento da mercurio, che è appunto l'elemento chimico utilizzato da queste attività artigianali, perché riescono a procurarselo per via traverse, tramite ospedali piuttosto che tramite amicizie, mentre nessuno parla invece dei disastri ambientali provocati dalle multinazionali, che sono più rari, ma sono devastanti, cioè che non fanno, ma che sono disastrosi. Mm-hmm. Intere valli distrutte, più o meno nella stessa zona, leggermente più a nord, quasi al confine con il Kenya, E questa è la situazione, quindi pian piano queste attività artigianali, a queste attività artigianali non conviene più estrarre l'oro, quindi fare tutto il processo produttivo, ma conviene di più vendere, diciamo, la sabbia, le pietre sminuzzate alle multinazionali che poi finiranno il processo di lavorazione. Mm-hmm. E quindi la situazione è che gli strumenti di lavoro sono sempre minori, non hanno più la possibilità di sostituire macchinari fondamentali come delle pompe che aspirano l'acqua che trovano nel sottosuolo, quindi si ritrovano anche a dover lavorare in condizioni assolutamente disumane, ecco. Sì, sì. Con un costo umano abbastanza pesante. Senti Matteo, il tuo lavoro è stato presentato, come ricordavi prima, al Festival dei Popoli a Firenze, e per vederlo prossimamente? Allora, noi adesso abbiamo presentato al Festival dei Popoli, poi al Cinema Barberino, e poi ci siamo inventati una modalità non convenzionale, l'abbiamo presentata venerdì scorso qua a Torino, perché ci interessava lavorare sulla simultaneità della visione dei tre corti e cercare di lasciare allo spettatore la possibilità di costruirsi un proprio percorso, e quindi abbiamo fatto questa serata che si compone sostanzialmente di una sorta di installazione per cui i tre corti vengono proiettati simultaneamente con audio in cuffie, e la serata si chiama Il peso specifico degli elementi, e speriamo quindi di poterlo portare in giro anche in questa modalità live, diciamo, che si contrappone anche un po' alla voracità con la quale siamo abituati ad avere a che fare con le immagini, certo. Stabilendo un rapporto con il pubblico. E quindi adesso al momento non ho date da segnalarvi, ma vi farò sapere. È certo. In fretta, e noi lo segnaleremo. Senti Matteo, io ti abbraccio e a risentirci presto a questo punto. Perfetto, un abbraccio anche a te e a tutti gli ascoltatori. A presto. Ciao. Matteo Tortone, co-regista del documentario Swahili Tales. Ecco qui, ce l'abbiamo fatta, Aldo Zappalà, regista del documentario Oltre Gomorra. Ci siamo conosciuti a Sulmona, la 30ª edizione del Sulmona Cinema Film Festival. È un piacere averti anche al telefono. Come va, Aldo? Va bene, io naturalmente sono in auto con le cuffie e qualcosa, però non so se poi la linea cade. Comunque va bene, al momento ti sentiamo. Allora, Oltre Gomorra, si parla di terre e beni sequestrati alla criminalità organizzata e rimessi a disposizione della cittadinanza. Ecco, che tipo di ricerca avete fatto, Aldo? Allora, la ricerca è partita soprattutto dal cercare di quantificare il tesoro dei boss, cioè quanto è il fatturato delle mafie, che purtroppo i dati poi sono sconcertanti, perché giustamente, come dice un'intervistata, se la mafia si quotasse in borsa sarebbe il principale listino di borsa italiano. E quindi su questa analisi, l'abbiamo fatto un'analisi per la realtà delle tre principali mafie, cioè mafia, cioè Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta, e poi ci siamo posti questo problema di capire i beni confiscati, che è l'unico sistema oramai, perché non basta più la lotta armata, cioè gli arresti, le cose, bisogna proprio ormai togliergli i soldi. I beni confiscati in questo sono ad esempio un utile strumento. Purtroppo non è molto facile, perché la tematica dei beni confiscati purtroppo non è molto conosciuta, né compresa, né capita. Deve da dire che un bene, prima di essere confiscato, deve essere sequestrato, e quindi una volta che è stato sequestrato poi bisogna verificare se il sequestro è giusto o meno, e quindi dopodiché si arriva alla confisca, e già con questo passano 3-4 anni. C'è stata una prima maniera, perché il problema, quando il bene viene sequestrato, a chi lo affidi? All'inizio lo si affidava, o lo si lasciava così com'era, o lo si affidava a terzi, col risultato che poi camorristi, ndranghetisti o mafiosi per essi distruggevano il bene. Recentemente la magistratura lo sta affidando agli stessi criminali, anche perché quelli, finché non avvenga la confisca, sperano sempre che non gli venga confiscato. Ma il tutto è molto complesso. Io sto venendo adesso da una riunione a Napoli proprio sulle tematiche dei beni confiscati e è molto complessa la storia. Anche perché ci sono, da quello che dicevi lì a Sulmona, due ordini di problemi. Il primo, lo accennavi adesso, è di carattere burocratico e giudiziario, per cui passa diverso tempo prima che il bene venga sequestrato e poi messo a disposizione della comunità. E poi dall'altro lato c'è l'ignoranza rispetto alle associazioni che potrebbero, senza fini di lucro, utilizzare questi beni e rimetterli appunto a disposizione della collettività. Sì, perché questo poi è l'altro problema. Appunto, la tematica dei beni confiscati non è molto conosciuta, quindi sono molte le associazioni che non sanno che potrebbero avere, perché appunto i beni vengono confiscati e poi possono essere affidati per usi sociali. Tra l'altro vi da dire che poi c'è un problema in questi ultimi anni. Purtroppo quando viene affidato un bene ad un'associazione, l'associazione deve riuscire a creare un criterio di sostenibilità, perché poi non può essere lo Stato a elargire fondi indifferentemente per il sostentamento di questi beni. Li può affidare, può dare dei primi soldi per lo start-up, ma poi le associazioni devono cominciare a porsi il problema: bene, ma come andiamo avanti, come riusciamo a guadagnare, a pagare le persone che lavorano, eccetera, al di là delle fonti di finanziamento. Purtroppo ci sono alcuni casi positivi, ma ci sono moltissimi casi negativi, cioè di associazioni che hanno avuto affidati beni confiscati e poi hanno dovuto rimetterli indietro. E questa è un'altra tematica, poi soprattutto oggi in tempo di crisi. Infatti stamattina questo si diceva, che gli enti locali, quando affidano i beni confiscati a delle associazioni, le associazioni devono riuscire poi a garantire anche, come dire, il sostentamento delle persone che ci lavorano dentro, certo, al di là dello start-up del primo periodo, in cui puoi avere un finanziamento da parte dello Stato. E quindi uno dei paradossi, dunque, dalle tue parole sembra che sia, insomma, da una parte c'è questa grande opportunità sia di posti di lavoro che di reddito per tanti giovani, e poi dall'altra un bene che sono numerosi, poi, tra l'altro, questi beni sequestrati. Sì, ma questo è il vero problema. Qua siamo arrivati ormai, i beni sequestrati, mi sembra che siamo arrivati a 28 miliardi di euro, quelli sequestrati. Sì. Quelli confiscati mi sembra siano intorno ai 3, 4, 5, ma qua il grande problema sono le aziende. Esatto. Qua il bene confiscato non è tanto, credo, l'immobile o l'auto o il terreno, sono le centinaia di aziende. E lì è un dramma, perché l'azienda sequestrata dovrebbe comunque dava lavoro ad una serie di persone, dava lavoro illegale, perché il sistema poi era controllato all'interno di un circuito mafioso, ma c'erano lavoratori che ci lavoravano. Col bene, quando viene sequestrato e confiscato, vuoi perché le aziende lavoravano in un circuito mafioso, mettiamo il caso quelle del calcestruzzo, c'erano le ditte che erano costrette a comprare là. Nel momento che l'azienda viene sequestrata, e tutto questo meccanismo viene meno, però sta diventando un grosso problema, perché le aziende ormai, mi sembra, siamo arrivati a 400 aziende sequestrate, di cui però in realtà quelle che poi stanno funzionando veramente si contano su di una mano, ahimè. C'è il caso esemplare della Calcestruzzi e Licinia, che è appunto questa grossa ditta di calcestruzzi che era di proprietà di Virga, del capo del mandamento mafioso di Trapani, che sono riuscite a funzionare, eccetera. Ma perché? Perché Libera ci si è messa, come dice a Napoli, cagata e copontiera. A un certo punto a questa ditta erano riusciti a superare tutta una serie di problemi, di ostacoli proprio nei piedi degli stessi mafiosi, eccetera. Solamente che a un certo punto si è posto il problema che dovevano rimodernare gli impianti, ci volevano 700.000 euro e non potevano mettere a garanzia niente, perché i beni confiscati rimangono di proprietà del demanio, dello Stato, quindi non li puoi mettere a garanzia per avere un fido bancario, un prestito. Sì. In quel caso è stato Don Ciotti di Libera che ha chiamato Stefanini, che era il presidente dell'Unipol, e gli ha detto: senti, mi servono 700.000 euro. E giustamente Stefanini ha detto: sì, vabbè, ma con quale garanzia? E Don Ciotti ha detto: nessuna garanzia, perché è un gesto. L'Unipol è una banca un po' diversa, una banca, insomma, una assicurazione un po' diversa, e ha dato questi 700.000 euro, che tra l'altro sono stati ridati indietro, quindi è stato dimostrato che è possibile. Ahimè, però il caso dell'Unipol è un caso unico. Certo. Questo è un po' un problema. Senti Aldo, allora prima citavi l'associazione Libera Don Ciotti, voi il documentario lo avrete realizzato proprio grazie a Libera. Volevo sapere, visto che c'è anche un progetto di diffonderlo per le scuole, e per avere informazioni su questo documentario oltre Gomorra in rete, dove si può cercare? Dunque, allora, il tutto fa parte di un'iniziativa che si chiama Stesso Giorno, Stessa Ora, che prevede appunto la distribuzione di un DVD a tutte le scuole che lo vedono lo stesso giorno alla stessa ora, il 21 marzo mattina. Sì. Quest'anno sono alla terza edizione. L'edizione dell'anno scorso è stata fatta appunto col DVD che conteneva Oltre Gomorra. Bisognerebbe chiedere o a Libera Nazionale, telefonare a Libera Nazionale, oppure chiedere alla Fondazione Polis di Napoli, che è la fondazione della Regione Campania per i beni confiscati e per le vittime innocenti di Camorra. Quest'anno per il 21 marzo del 2013 ci sarà un documentario diverso, ci sarà un documentario che si chiama Mafia 2.0, le mafie dopo la mafia, dove ahimè raccontiamo la collusione che sta avvenendo in Italia tra le nostre mafie e le mafie straniere. Sta diventando una grande holding del crimine. Il problema è che ad esempio su queste cose... io non sempre sono molto d'accordo con Saviano o con le sue cose, però queste ultime sono uscite proprio giusto, cioè qua tutti i possibili candidati, tra i quali anche De Magistris a Napoli, che ha fatto il movimento arancione, però il problema delle mafie, della lotta alla mafia non viene mai considerata come un fatto prioritario, ahimè, certo, diciamo. Certo. Aldo, è stato un piacere, io spero di risentirti presto, di avere modo di averti di nuovo qui ai nostri microfoni, e un abbraccio. Ok, vi ringrazio a tutti, grazie. Ciao Aldo. Ciao. Aldo Zappalà, regista del documentario Oltre Gomorra, dovremmo avere un altro collegamento. Ecco qui, come annunciato, un ultimo collegamento con Emiliano Luccisano, autore, regista e protagonista dello spettacolo teatrale Revolution Belli e Ribelli, che ora sta insieme alla sua compagnia Controcorrente pensando e lavorando ad un progetto film dello spettacolo. Emiliano, intanto ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitato, buongiorno. Allora sì, noi, sì, come dicevi giustamente tu, abbiamo finito adesso questa splendida avventura che è stato Revolution, siamo stati felici anche di avervi, insomma, di aver condiviso con voi questa esperienza, e per chi non l'ha visto, diciamo, Revolution è uno spettacolo che prende tutto quello che diciamo gran parte del 77, una parte di 78, e racconta un pochino quelli che sono gli eventi chiave di quello che è passato per la storia come il movimento del 77, no? Quindi affrontando anche storicamente, attraversando tutti i fatti di cronaca più o meno che sono avvenuti in quegli anni là. Però siccome sono dei fatti di una quantità infinita, cioè ce ne sono tantissimi, che in uno spettacolo teatrale per forza di cose non vanno tutti, non c'entravano proprio, certo. Per cosa? Allora, sotto richiesta anche del pubblico, dei molti ragazzi del 77 che ci hanno contattato entusiasti, noi veramente non ci aspettavamo una risposta del genere, allora cioè, ci siamo spinti e ci hanno spinto, insomma, il nostro pubblico a pensarne una versione cinematografica, per cercare anche di un pochino chiudere il cerchio, per reinserire degli episodi che per forza di cose abbiamo dovuto passare velocemente, oppure e proprio eliminare, perché insomma sai, in una storia teatrale è molto più vincolata rispetto a un ambito cinematografico, insomma questo è quanto. Allora Emiliano, compagnia controcorrente, 8 tra attori e attrici in scena, siete andati, avete fatto 2 serie di repliche, una ad Ostia e una qui a Roma, a Trastevere, al Teatro Spazio 1. Intanto mi dicevi che è stato un bel successo, insomma era sempre pieno a teatro. Sì, è stato sempre pieno, siamo stati contentissimi, una grande risposta anche affettiva da parte delle persone che hanno vissuto intanto quel periodo direttamente, perché poi è stata un'affluenza di insomma persone che ti ho sentito dire o per insomma conoscendo, perché poi come ripeto abbiamo fatto molte interviste proprio a loro personalmente, quindi diciamo sono venuti a vederci, hanno rivissuto un pochino quello che era l'area di quei tempi là e ci hanno dato una grande risposta, una commozione che abbiamo condiviso e anche soprattutto molti giovani, ragazzi della nostra età che comunque intanto si sono avvicinati a una realtà che purtroppo come sappiamo è censurata costantemente da libri e testi di qualsiasi genere, cioè non si trovano documenti se non proprio andarli a spilocchiare, sono molto difficili da reperire. E poi tra l'altro hanno fatto anche un paragone con l'oggi che diciamo ci stiamo riavvicinando un pochino a quello che è l'area che si respirava allora, insomma almeno la speranza è quella, nel senso che questo più o meno. Senti Emiliano, ecco, alla base ci sono una serie, allora c'è la avete lavorato sulla memoria orale, nel senso ci sono una serie di interviste che avete realizzato, però immagino a quanto mi dicevi la scorsa volta anche una serie di documentazioni scritte, avete consultato insomma. Sì, abbiamo consultato dei libri, abbiamo consultato dei documenti che però appunto come dicevo prima sono stati molto difficili da reperire. Per quanto riguarda i libri ci siamo dovuti avvicinare per forza di cose con molta cautela in quanto sai è una realtà che viene sempre fuorviata da intanto dai testi in commercio, poi anche da testi che siamo riusciti a rimediare tramite prestiti di persone che insomma li avevano conservati in qualche scaffale, cioè siamo riusciti a mettere insieme quello che più o meno era la realtà della strada dei comitati dell'epoca, che poi è quella più interessante, più viva ancora oggi. Allora, per come è articolato lo spettacolo, si tratta di una serie di scene collegate, insomma c'è comunque un filo conduttore temporale, vi muovete a cavallo tra il 77 e il 1978, e poi ci sono anche degli inserti musical. Sì, ci sono degli inserti musical, è stata una ricerca molto divertente perché siamo andati diciamo a riprendere tutto quello che era il repertorio musicale dell'epoca. Beh, intanto un gruppo che su tutti è presente sono gli Area, Gioia e Rivoluzione, L'Elefante Bianco, Cometa Rossa, insomma delle canzoni che all'epoca infiammavano gli animi. C'è anche qualche inserto straniero, i Beatles, Rolling Stones, Paint It Black, Revolution, insomma un pochino là, e poi insomma i vari De André, De Gregori e anche tanti esclusi per forza di cose, Guccini, Lolli, insomma una serie, gli Intillimano, i Procolarum, insomma una quantità di gruppi che Gabber, adesso me ne vengono in mente un pochino così random, ma Bennato con Mangiafuoco, insomma una serie infinita di musica che anche quello un pochino abbiamo dovuto fare un taglio, lasciare fuori delle cose, insomma che sarebbe interessante poi invece introdurre in un'operazione cinematografica per respirare totalmente quella che era quell'area, Finardi, insomma vengono in mente un po' così. Sì. Ecco. Oh, uno degli episodi centrali della storia rimanda direttamente alla vicenda di Valerio Verbano. Sì. Voi nello spettacolo fate l'ipotesi di un assassino, però in questo non riveliamo troppo rispetto a quanto va in scena, di un infiltrato. Ecco, come avete lavorato su quest'idea e su questo ricordo? Allora sì, l'idea diciamo che il mio personaggio, che poi è il personaggio che interpreto io, nella seconda parte dello spettacolo richiama molto, come hai giustamente detto, l'immagine di Verbano, perché anche se è un'immagine che insomma diciamo un episodio successo un paio d'anni, 2 o 3 anni dopo il periodo che raccontiamo, ci tenevamo intanto a farlo ricordare, perché poi tra l'altro durante la preparazione dello spettacolo c'è stata la scomparsa della mamma di Valerio, insomma. Quindi ci tenevamo proprio a mettere, abbiamo deciso di voler ricordare quell'episodio e ricordare intanto lo schifo, insomma, legato un pochino a quella faccenda. Sì, noi nello spettacolo ragioniamo su un infiltrato, nel senso che, diciamo, era una realtà che all'epoca esisteva, ma che viene soprattutto da prima, insomma, se ricordiamo poi in questi giorni, ecco, c'è stato l'anniversario di morte di Pinelli, quindi diciamo tutto quello che è stato l'infiltraggio nell'ambiente anarchico del 68-69, insomma, con vari nomi che ancora oggi circolano, e tutto il discorso dei NAR, che insomma, diciamo, questa volontà di un ragazzo di aver steso un dossier per portare alla luce, insomma, delle verità che erano presenti in strada, che si conoscevano benissimo, come è stato importante anche il dossier che in quegli anni si faceva su a Milano sull'eroina, l'uccisione di Fabio Iaio, insomma, una serie di cose che ci tenevamo a portare in un certo modo all'interno dello spettacolo, anche se, come ho detto prima, non palesandole proprio fino in fondo, in quanto, insomma, una stesura teatrale ti costringe un pochino a delle sintesi forzate. Però, diciamo, sì, era un episodio che ci tenevamo molto a ricordare, perché secondo me è stato significativo di quello che poi è stato lo sviluppo della parabola nell'ultimo arco del tempo che raccontiamo. Sì. Senti Emiliano, per il progetto film vi siete affidati a Produzioni Dal Basso, com'è l'idea? Spiegaci un po' come vorrete tradurlo in immagini filmiche, questo spettacolo. Sì, allora, l'idea è questa, nel senso, intanto riportare un po', partire da un po' prima e finire un pochino dopo. Sì. Rispetto al tempo che raccontiamo, vorremmo riprendere l'episodio anche dell'occupazione di quando fu impedita la prima della Scala nel 76, di cui c'è stato tra l'altro lo stesso giorno, quest'anno proprio, insomma, è risuccessa questa cosa, quindi è come mai attuale, e fino, diciamo, a portarlo un pochino più in là, forse prendere addirittura la morte di Moro e quello che è stata poi la repressione che è successa in coda a queste faccende. E volevamo un pochino intanto ridare proprio delle immagini di scontri, del terrore che c'era per strada, della tensione, ma anche della gioia e della passione che si spingeva, quindi ecco quello, dare delle immagini possibilmente di massa, anche recuperando degli elementi video proprio dell'epoca, tipo i video della cacciata di Lama alla Sapienza, insomma, dei vari scontri del 2 dicembre, insomma, tutto quello che sono stati gli scontri del 77-78, e diciamo condirli con questa storia, rendendola un pochino più ampia e tridimensionale. Mm-hmm. E appunto, come dicevi tu, Produzioni Dal Basso perché diciamo il concetto proprio con cui abbiamo voluto fortemente sviluppare questo spettacolo è proprio un coinvolgimento di massa, un coinvolgimento intanto nostro, passionale, emotivo, ma anche un coinvolgimento sociale. E quindi Produzioni Dal Basso è questo sito, questa operazione che permette a ognuno di versare una quota, ogni quota sono 10 euro, di prenotare delle quote, che poi, raggiunto, diciamo, il budget che abbiamo prefisso, che è un budget basso, insomma, si verranno dati a noi per realizzare questo film. Quindi, diciamo, un pochino tutto quanto il nostro pubblico, che tra l'altro sta partecipando in maniera numerosissima e calorosissima, che io ne approfitto, insomma, per ringraziare. E per poi appunto realizzare questa operazione, che può intanto un recupero di memoria, perché credo che la memoria sia una base importante per poter ripartire oggi e costruire un discorso di riappropriazione della nostra strada, della nostra storia, in un certo senso. Sì, sì, sì. Tra l'altro, io, ecco, per rispetto a Produzioni Dal Basso, sul sito internet della radio, alla pagina di Visionari della trasmissione di oggi, nella sezione chiaramente ospiti, ho messo anche il link che rimanda a quella pagina, quindi chi volesse avere maggiori informazioni può andare lì. E possiamo anche dire, Emiliano, in chiusura, che tra lo spettacolo e il film ci sarà anche un passaggio intermedio, ossia un adattamento radiofonico dello spettacolo. Lo possiamo già anticipare, no? Assolutamente sì, lo possiamo dare per sicuro al 1000%, noi siamo contentissimi. Beh. E a breve faremo questa operazione, che non vediamo l'ora di fare. Anche tutti i ragazzi della compagnia sono entusiasti, anche perché, ripeto, c'è stata una tale partecipazione di affetto e anche di condivisione e scambi di idee rispetto a quella che è una realtà che purtroppo spesso scordiamo, che invece occupa gran parte del nostro presente, che a noi fa un enorme piacere venirla a proporre intanto da voi, perché insomma ci siete stati molto vicini in questa operazione, ma poi proprio in generale per poterla condividere col maggior numero di persone possibili, ecco, quindi possiamo dare per certo al 1000%. Allora, ci si sentirà su queste frequenze, da questi microfoni, e io ti abbraccio, saluto anche il resto della compagnia e a presto. Sì, grazie mille, dicevo, possiamo trovare anche il link di Produzione dal Basso sul nostro sito, che è www.compagniacontrocorrente.it. Benissimo. Grazie mille, siete stati gentilissimi come al solito. Ciao Emiliano. Un abbraccio a tutti. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Emiliano Lucisano, autore, regista e protagonista dello spettacolo Revolution, Belli e Ribelli. E con lui chiudiamo la puntata di questa settimana di Visionari, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni, come dicevo poc'anzi, le trovate sul sito internet della radio, www.ondarossa.info, la voce trasmissioni radioteatro. Trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 20 dicembre. Poi le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, anche con qualche link che rimanda a recensioni, e poi film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, la settimana sul piccolo schermo. Per quanto riguarda poi gli altri appuntamenti della settimana, quelli in giro per l'Italia tra rassegne, festival e quant'altro, e poi il link che rimanda alla puntata precedente, e in fondo quello che rimanda invece a tutte le puntate del 2012. Per comunicare con noi vi ricordo anche l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. siamo anche su Facebook con una pagina proprio dedicata alla trasmissione.